a Palazzo Pallavicini, siccome appunto ero andato alla conferenza stampa, ormai sembra una vita fa, ma effettivamente erano due mesi fa, e ho scoperto appunto come si pronuncia il suo nome. Le porte di Palazzo Pallavicini si apriranno al pubblico e le luci si potranno riaccendere sulle poetiche immagini dell'autore del bacio più famoso e discusso nella storia della fotografia, scrive il comunicato stampa. Presente tra le 143 immagini in mostra, l'esposizione dedicata alla street photography dell'artista parigino Robert Houtoinot aprirà in tutta sicurezza giovedì 21 maggio e sarà prorogata fino al 21 luglio, seguendo ed ampliando il piano già adottato nel corso della conferenza stampa della mostra del 5 marzo, che effettivamente è stata l'ultima volta, una delle ultime volte in cui sono uscito di casa, e alla breve, seppur partecipata, apertura al pubblico dei due giorni successivi. Così dal 21 maggio al 21 luglio, in via San Felice 24 a Bologna, si potrà di nuovo percorrere il prestigioso scalone di Palazzo Pallavicini a ingressi contingentati, rispettando il distanziamento sociale e con il vivo suggerimento rivolto a tutti i visitatori di indossare dispositivi di protezione personale per tutelare se stessi e gli altri. Dunque andate immediatamente subito su www.palazzopallavicini.com per prenotare la visita a questa mostra, che effettivamente è una mostra che merita assolutamente. Nel contempo riceviamo messaggi dalla nostra fantastica Francesca di Simpress 44, che ci fa sentire un pezzo di un nuovo disco dei Guernica, che si intitola Noi Nessun Ordine Imposto, che i Guernica appunto per l'emergenza del coronavirus hanno reso disponibile online per il download. Lo trovate su guernicaband.com e adesso ci ascoltiamo questa C'est la vie. Je addormenterà, io sorriderò, donandomi calore si concederà, io danzerò con limpido candore, s'addormenterà, io sorriderò, donandomi calore si concederà, io danzerò. Bel pezzo, questo Se la vide i Guernica. E volevo anche dirvi che, appunto, se volete scaricare gratuitamente il nuovo album Nessun Ordine Imposto, i Guernica, appunto, lo hanno messo a disposizione, e l'eventuale donazione che volete fare andrà totalmente a favore dell'associazione Babba Arrum, per, appunto, comprare dispositivi di protezione individuale per il personale dell'ospedale Moscati di Avellino. Tornando invece a ruota a Bologna, appunto, dove siamo, come forse avrete sentito dire o avrete letto in alcuni giornali locali, c'è qualcosa che bolle in pentola, che naturalmente ha a che fare anche qui con il coronavirus, ma anche qui al Mambo, al Museo d'Arte Moderna di Bologna. Questo perché? Perché nel frattempo la mostra Again and Again and Again and Again and a cura di Lorenzo Balbi, ahimè, è finita, per cui in questi giorni verrà smantellata. A me dispiace molto perché non sono riuscito a vedere il video di Susan Phillips, che avevo conosciuto a New York un miliardo di anni fa, e appunto quando ho visitato la mostra all'inaugurazione l'ho visitata con una certa così velocità e mi è completamente sfuggito. Ma Again and Again and Again and, che vuoi fare, c'est la vie, come appunto cantavano i nostri Guernica poco fa. Come forse avrete sentito dire, appunto, c'è un progetto che coinvolge il Mambo, che è quello di, diciamo, rivoluzione di quello che è la modalità espositiva costituita, proprio per il fatto che questa crisi del coronavirus ha dovuto necessariamente cambiare le cose. Come sapete, il Mambo è un museo comunale, i fondi del comune sono stati soprattutto, adesso io non ho i numeri davanti a me, ma sono stati allocati soprattutto per l'emergenza sanitaria, e dunque il Mambo si è dovuto inventare qualcos'altro. E ho qui con me, abbiamo intervistato presidente di Bologna Musei, Roberto Grandi, che ci racconta appunto tutto il progetto, che di fatto è un'ideazione soprattutto del direttore del Mambo, di Lorenzo Balbi. Cosso risponde. Siamo qui con Roberto Grandi. Innanzitutto devo dire che È un grande onore per me avere il presidente di Bologna Musei a Radio Città Fugico. Come stai, Roberto? Bene, sono molto contento di esserci, di poter raccontare qualche cosa di ciò che stiamo facendo. Certo, come sta andando la tua quarantena? Ma bene, anzi, sono arrivato al punto in cui mi domando perché dovrei uscire. Sì, devo dire che un po' di gente sta facendo questa pensata, perché effettivamente dopo 2 mesi ci stiamo un po' abituando tutti a stare in casa. E invece il Mambo esplode in una novità assoluta con il nuovo forno del pane. Io naturalmente so già tutto perché mi sono guardato tutta la vostra conferenza stampa in differita, perché online non potevo, ma facciamo finta che io non sappia assolutamente niente e che tu me lo racconti un po'. Che cosa succederà al Mambo dal 18 maggio in poi? Diciamo che il contesto brevissimamente è questo. Questa situazione è una situazione che pone dei problemi di budget all'istituzione Bologna Musei, che ha 14 spazi museali, e quindi per ragioni di budget, visto e considerato che la parte commerciale dei biglietti, del merchandising, sponsorizzazioni non ci sarà, siamo costretti a così graduare l'apertura dei musei e a rinunciare a quelle che sono le nuove mostre. Quindi lo spazio maggiore, la sala delle ciminiere del Mambo, sarebbe rimasta chiusa da qua almeno fino a dicembre. Sempre nel contesto, già da parecchi mesi stavamo discutendo con l'assessore alla cultura Lepore della necessità che in città si portassero avanti delle iniziative che potessero offrire a artisti creativi in generale degli spazi dove poter operare, proprio perché una città oggi che vuole essere una città creativa, una città innovativa dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale, deve riuscire ad attrarre i talenti maggiori. Terzo elemento sempre di contesto fa riferimento al fatto che in questo periodo gli artisti, molti creativi, sono in una situazione di non garanzia e quindi si trovano male. Non hanno spazi per poter lavorare, per poter portare avanti le loro attività. Ed ecco allora che questi tre elementi assieme hanno fatto venire l'idea a Lorenzo Balbi, che è responsabile dell'area del contemporaneo e quindi di Mambo, di ipotizzare questo nuovo forno del pane e quindi che questo spazio, questo enorme spazio, possa essere suddiviso tra creativi i quali portano avanti attività tra loro di tipo diverso. Quindi ci possono essere artisti, ci possono essere fotografi, videomaker, abbiamo anche una falegnameria e quindi potrebbe essere anche un'attività più artigianale di questo tipo. Ecco, quale sarebbe il senso di tutto questo? Il senso di tutto questo sarebbe di offrire l'opportunità che dal basso nasca una comunità creativa del forno del pane. Dico dal basso perché le comunità creative non nascono dall'alto. Dall'alto si può dare uno spazio per fare in modo che queste comunità. E perché comunità piuttosto che singoli studi, singole residenze? Comunità perché chi lavora in quello spazio deve sentirsi parte di quella comunità e quindi mettere in comune qualche cosa nel farsi, in quei sei mesi in cui rimarranno sicuramente in quello spazio. Ecco, essere assieme che cosa significa? Come ci si fa contaminare e come si contamina gli altri? Si entra ma si esce diversi, si esce valorizzati e quindi diventa uno spazio di creazione, uno spazio di produzione artistica di cui non sappiamo ovviamente quale sarà il finale, l'obiettivo, ma sappiamo che è un'esperienza affascinante e considerato che oggi i musei non sono semplicemente un insieme di collezioni ma sono dei veri e propri hub culturali che hanno responsabilità nei confronti della società, dei creativi, dei residenti, eccetera. Ecco, quindi questa è un'iniziativa che si inserisce in un discorso che stiamo facendo sui musei e che ha avuto, diciamo, una bella accelerazione. Everybody's talking and they're talking. Dance with the missing people. Understand all the missing people. Hold hands with the missing people. I wanna stay like the missing people do. I wanna stay like the missing people do. Get lost with the missing people. Fantastico, e devo dire che stavo pensando che in realtà è già un po' di anni che il mambo sta aprendo in maniera esponenziale alla popolazione, e non solo il mambo, in realtà tutto Bologna Musei, se pensiamo anche al numero di mostre che ci sono negli spazi museali del comune di Bologna durante Arte Fiera, veramente non ci si riesce quasi a stare dietro. E stavo pensando anche alla residenza di Villa delle Rose, no? In contrapposizione a questa sorta di residenza, che però appunto questa del mambo invece vede la partecipazione degli artisti locali, o sbaglio? Artisti in questo caso ovviamente artisti locali, per due ragioni. Uno, perché non sappiamo quando qualcuno potrà venire da fuori Italia o anche da fuori regione. Secondo, perché ci rivolgiamo proprio agli artisti, ai creativi, direi, non garantiti, che sono in situazione di grande crisi e di grande necessità qua a Bologna, e quindi questa prima fase è una fase che interessa loro. E effettivamente anche, probabilmente lo sai, forse Lorenzo te l'ha raccontato, che anche il Forum dell'Arte Contemporanea, insieme a questa nuova realtà che si chiama AWI, Artworkers Italia, sta proprio lavorando anche a questo, perché effettivamente il problema dell'identità dell'artista, dell'identità tra virgolette giuridica o finanziaria, economica, dell'artista in Italia è sempre stato un problema, nel senso che fino agli anni 80 si faceva più o meno tutto in nero, nel momento in cui si potevano mettere un po' a posto fiscalmente le cose, diciamo sì, che è sempre stato tutto in una zona molto grigia. Effettivamente anche questo diciamo che ha contribuito a rendere gli artisti in una posizione peggiore degli artisti per esempio della Francia o della Germania, che invece più o meno sono tutelati anche da associazioni eccetera eccetera. Quindi sì, noi abbiamo voluto dare questa risposta. Ci sarà poi un open call. Ah, ecco, infatti ti avrei chiesto poi come funzionerà tutto quanto. L'open call direi che riusciremo a realizzarla attorno a metà maggio, e quindi dopo sarà fatta un'analisi per la scelta, visto lo spazio, considerato poi che dobbiamo tenere conto delle misure anche di sicurezza che ci devono essere, quindi anche definire quanti studi è in funzione di queste domande che ci stiamo facendo. La cosa fondamentale è quindi è che ci sia una interdisciplinarietà, ma sostanzialmente ciò che è importante è la motivazione per la quale questi creativi sono disposti, vogliono realizzare questa comunità, perché significa anche mettersi in gioco, e mettersi in gioco non tutti poi sono disposti a farlo, e quindi è un mettersi in gioco da parte loro, un mettersi in gioco da parte nostra. Poi quello che stiamo facendo, visto e considerato che la premessa è stata che siamo in grave crisi economica e quindi l'alternativa era tenere gli spazi vuoti, è di trovare, stiamo parlando con un istituto bancario, di dare anche una minima borsa per poter realizzare queste produzioni, e quindi che possano avere questo aiuto per lavorare in questi mesi. No, che effettivamente questo diciamo che è un tasto tra virgolette dolente, perché effettivamente cosa succede nel mondo dell'arte italiano? Perché forse molti nostri radioascoltatori non lo sanno, è che spesso si viene chiamati da istituzioni, ma si viene chiamati da istituzioni con un budget o limitatissimo o addirittura senza budget, e stiamo parlando anche da istituzioni come potrebbero essere la Biennale di Venezia, per dire. Naturalmente nessun artista direbbe no al Mambo o direbbe no alla Biennale di Venezia, anche se il budget è limitato o tra virgolette nullo, perché poi naturalmente ci sono un sacco di altri fattori che fanno sì che entrate possano arrivare da altre parti. Ma secondo te, anzi forse questa è una domanda che magari avrebbe più senso fare a Lorenzo, ma mi piace farla anche a te, secondo te vedremo un cambiamento rispetto anche a queste dinamiche, alle dinamiche del ok lavora gratis in cambio di visibilità eccetera eccetera nel mondo della creatività italiana? Ma io mi auguro di sì, anche se, come tu dici, il ricatto della reputazione, il ricatto della notorietà, e che non riguarda poi soltanto gli artisti, riguarda un po' tutti i creativi, riguarda gli artisti teatrali. Sembra di fatto c'è un po' un implicito che chi fa un lavoro intellettuale è uno che in primo luogo si diverte, è fortunato a farlo, e quindi il pagarlo, voglio dire, così è un qualche cosa non necessario. Ciao, siamo le Linking Fingers e questo è Coxo Spaziale. Nessuno mai si sognerebbe giustamente di pensare che un elettricista, un idraulico o anche un tecnico lavori gratis. Nessuno ci pensa. All'artista, al creativo, allo scrittore, sì, gli si domanda spesse volte di lavorare gratis. E quindi credo che questo sia effettivamente sbagliato. è ovvio che avviene per le ragioni che abbiamo detto precedentemente, perché rifiutare significa anche rischiare, virgolette, di perdere un'occasione di visibilità. L'altro aspetto anche interessante, diversamente dal solito, è che uno potrebbe dire: bene, Mambo di fatto ti dà uno spazio di 6 mesi, non paghi in questo spazio, e quindi alla fine l'opera che tu realizzi è un'opera che rimane, che è in qualche maniera ciò che l'istituzione così si prende. E però il fatto che la prenda Mambo anche in questo caso ti dà un plus di notorietà, eccetera. Ecco, con Lorenzo abbiamo voluto evitare anche questo. Quindi se alla fine, poi non sappiamo che cosa c'è alla fine, però se da tutta questa attività nasce un qualche cosa, da questa attività produttiva nasce un qualche cosa, un qualche prodotto di qualsiasi tipo, ecco che l'interesse nostro probabilmente sarebbe di acquisirlo, ma quello che vorremmo è non ovviamente acquisirlo gratuitamente, ma trovare qualcuno che lo acquisti e poi lo doni al Mambo. Ecco che diventerebbe quindi un percorso virtuoso. Quindi questi creativi vengono, hanno un piccolo budget per produrre, ma non spendono, visto che è considerato che quelli che prendiamo non hanno studio, quindi se avessero dovuto andare in uno studio avrebbero dovuto pagare le utenze, pagare l'affitto, tutte queste cose. Ma poi alla fine ecco che facciamo in modo anche di trovare chi in qualche maniera acquisti quel prodotto e lo possa quindi donare a noi. Ecco, quindi mi sembra che sia un percorso virtuoso che, come tu dici, può innovare il modo anche di rapportarsi delle istituzioni nei confronti degli artisti e delle loro produzioni. Premetto che sto già notando molto entusiasmo, soprattutto tra gli addetti ai lavori, in questa idea, il che naturalmente mi fa molto piacere, anche perché forse non sai, ma io abito a 4 metri dal Mambo, per cui sono molto curioso di sapere cosa succederà, eccetera. Questo poi è l'altro aspetto, perché compatibilmente con le solite misure di sicurezza, eccetera, ecco che quello che avviene dentro è un qualche cosa, voglio dire, che non viene in uno spazio nascosto e poi dopo 6 mesi c'è, virgolette, quella che è la produzione, ma in uno spazio visibile. E quindi non sappiamo, ripeto, problemi, coronavirus, eccetera, come sia possibile, ma ecco quello che sarebbe auspicabile, e riusciremo sicuramente a fare in modo che la cittadinanza, chi è interessato, possa vedere quello che sta avvenendo, anche perché l'intenzione nostra ovviamente è di tenere aperto per quanto riguarda la collezione permanente, per quanto riguarda il Museo Morandi, tenere aperto il Mambo. Non necessariamente nell'orario come quello attuale, orario magari più ridotto, ma il Mambo, ecco, è ben presente come museo da visitare, ma ecco, noi vorremmo aggiungere anche la visita di questi atelier, di questi laboratori, di questa factory, di questa community, chiamiamola come vogliamo, ma ci siamo capiti. Certo, no, anche perché poi tenere chiusa la collezione Morandi sarebbe un po' una follia, considerata la sua importanza. Un'altra cosa che mi era piaciuta di tutto questo era proprio questa parola comunità, che effettivamente, nascendo in un posto come l'ex Forno del Pane, che era nato appunto per dare il pane alla comunità, quello che io mi auguro veramente è che questa idea di comunità creativa possa, in una città come Bologna, che comunque ha una tradizione di comunità creativa, possa rifiorire, come magari abbiamo visto negli anni 90, eccetera, con una nuova, stavo per dire modestia, no? Ma con una nuova, cioè senza troppi cavilli machiavellici che rendono appunto uno un artista più importante dell'altro, eccetera, queste varie dinamiche, no, provinciali, mentre invece io spero che questo possa veramente rendere Bologna una città internazionale grazie a proprio questa idea di comunità, no? Di aprire la comunità a tutti. Sì, direi che insomma, hai toccato un punto forte, direi che rispetto al progetto di Lorenzo, questa creatività comunicativa con questo gusto retro è stato il mio apporto, proprio perché rispetto agli studi d'artista, alle residenze eccetera, ecco, questo è proprio lo spessore culturale diverso che fa riferimento, come tu dici, a quello che negli anni 90 soprattutto si è riuscito a fare in questa città. E quindi questo è rilevante, perché ci sono molte altre esperienze di residenze in cui ognuno fa la sua cosa, che sono belle, importanti, eccetera, ma il valore aggiunto, ecco, del mettersi assieme, del contaminarsi e del fare crescere attraverso questo delle produzioni che uno non pensava fin dall'inizio potesse essere così, significa proprio che c'è della effervescenza creativa che è importante per una città. E quello che dovrebbe tentare di fare, al di là di questo spazio che è importante e assolutamente idea innovativa, è la città, ecco, ripensarsi come una città che cerca in maniera anche distribuita nel territorio, questo è importante, distribuita nel territorio, delle opportunità per questa comunità allargata, che è una comunità così, che nasce dal basso, di chi, voglio dire, abbiamo detto, non ha un proprio studio, eccetera, quindi non quegli artisti che sono più affermati, ma che, ecco, avranno dei rapporti anche con questi, perché l'altra cosa interessante è che vedremo come ci saranno presenze anche di artisti più affermati che non partecipano ovviamente alla call, ma che sono interessati e saranno interessati a vedere che cosa avviene, e chi sarà lì presente sarà interessati ad interloquire con chi è già, virgolette, più affermato. Ecco, allora, attorno, voglio dire, poi in questi mesi ci saranno dei momenti di riflessione, dei dibattiti, dei ripensamenti, è un work in progress che avrà delle tappe che saranno tappe pubbliche, e quindi quello che avviene alla fine è un qualche cosa che avrà degli step intermedi in cui noi vedremo effettivamente che cosa avviene, e chiunque avrà la possibilità di dare suggerimenti e di essere in qualche maniera partecipi e attivo. Dunque, speriamo in una contaminazione creativa e non in una contaminazione di un altro tipo, perché effettivamente è una parola questa che in questi giorni non funziona molto bene. Io ti ringrazio tantissimo, Roberto, e poi naturalmente ti inviterò in studio a raccontare, quando sarà possibile, ti inviteremo in studio a Radio Città Fujiko, magari con anche Lorenzo, a raccontare dal vivo come sta andando questa avventura. Assolutamente, grazie agli ascoltatori, e come si diceva un tempo, se ne can debut, non è che l'inizio, e continua la nostra avventura. Benissimo, grazie mille ancora. Arrivederci, ciao. Ciao. Coxo spaziale. Yeah. ascolterò mai. Ringraziamo Roberto Grandi e mi scuso per il leggero gracchiare della registrazione, ma ahimè, come forse avete avuto modo di sentire quando lo vediamo dal vivo, Roberto ha una voce così possente che effettivamente ha fatto gracchiare il software che registra la voce per la nostra trasmissione. E, dicevo, abbiamo giusto il tempo per ascoltarci un teaser degli Ubi Maior che ci ha spedito Francesca del Grispello, sempre di Simpress 44, per raccontare la nuova uscita di un nuovo disco che si intitola Bestie, Uomini e Dei. La formazione milanese celebra il ventennale di attività all'insegna del New Prog, per cui chissà che non piaccia anche al nostro amico Riccardo Lolli, con il quarto album pubblicato da AMS Records, ispirato a figure mitologiche e persone misteriose. Siccome il tempo è quello che è, ascoltiamo questo sorta di teaser che ci fa capire un po' che tipo di musica possiamo ascoltare. Naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete i link per andare a scoprire tutto di questi Ubi Maior. Mario Moi, Gabriele Vocalsk, violino e trumpet, Gabriele Manzini, Marcella Arganese, Gian Maria Giardino e Alessandro Di Caprio. Dunque, con questo nuovo disco uscito fresco l'8 maggio, chiamato Bestie, Uomini e Dei, degli Ubi Maior. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Ultimo tango a Bosca, accordi consumati, le scarpe lucidate ed una donna sola. In fondo ad ogni gesto, sulla sua pelle bianca, la voce del grammofono mi si strozza in gola e arranca, inseguendo un violino nel metro. E in mezzo alla Moscova, Gagarin sta vagliando ipotesi di luna da vecchio commissario, e sulla piazza rossa lei cammina come un fiore caduto nella. Ultimo tango a Mosca, in uno specchio scuro di seni e braccia bianche confondono nel freddo, un respiro troppo forte cancella le pareti ed ora siamo in c'è. No. E lei ballava come un pellicano su tacchi di cristallo che accendono riflessi in mezzo ai venti e le sirene. La polvere si alza, è un'aquila ferita, è un angelo di sabbia, è solo una farfalla. E tra le ballerine del Bolshoi, un cielo di cartone si schianta con un grido, ma salta fino al cielo, si aggrappa alle promesse, si bagna di sospiri, dal fine del 700, e poi si fa più quieto. Lei vola verso il cielo sul dorso di un pinguino che ha la faccia di Gauguin. l'ultimo tango a Mosca, accordi consumati, le scarpe lucidate ed una donna sola. Ultimo tango a Mosca, in uno specchio oscuro, di segni e braccia bianche confondono nel freddo un respiro troppo forte, cancella le pareti ed ora siamo in cielo. Già finito? Ciao a tutti, in questo momento cruciale, spero che tu stia bene. Quando sei annoiato a casa, puoi preparare un caffè e cantare. Dile buonanotte, tramontare stelle, tramontare stelle, all'alba vincerò, vincerò. Noi vi salutiamo perché il tempo è tiranno e anche il nostro tempo è finito. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale e naturalmente ci risentiamo forse in studio, forse no, forse registrati lunedì prossimo sempre alle ore 19, sempre sui microfoni, sulle onde di Radio Città Fujiko 103.1 e come al solito vi lasciamo con le parole del nostro fantastico direttore. Ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.